Sport e motori con Massimo Di Scienza. Non sappiamo cosa stesse dicendo in questa intervista Shoya Tomizawa, pilota del team Suter della classe Moto2, ieri pomeriggio, subito dopo la fine delle prove ufficiali del Gran Premio di Misano Adriatico. Immaginiamo non fosse neanche troppo soddisfatto, avendo visto anche la sua faccia, perché aveva strappato soltanto l'ottavo posto in griglia nella gara che si è corsa questa mattina. E lui, che insomma è abituato a posizioni di classifica migliori, ha vinto in Qatar quest'anno, è arrivato secondo in Spagna, pole position in Spagna, non doveva essere troppo convinto della sua prestazione. Dalla voce comunque non si capiva. Ci ha fatto piacere riascoltarla questa voce, perché è l'ultima volta che qualcuno l'ha intervistato, perché Shoya Tomizawa ci ha lasciato oggi pomeriggio alle 14:20 dopo un terribile incidente stradale. Non era iniziato da tanto la gara della classe Moto2, era la variante sul circuito di Santa Monica, in piena accelerazione, ha perso il controllo della sua moto, della sua Suter, è caduto a terra ad oltre 200 km all'ora, è stato travolto da Alex De Angelis e poi da Reading, e poi è andata quasi bene così, perché stava arrivando un gruppo con altri 30 piloti che fortunatamente lo hanno evitato, ma lui era già un sacco, quasi, a vedere le immagini, senza vita. Tomizawa non ce l'ha fatta, ci ha lasciato. È la vittima, la morte che torna nel Motomondiale 2010, che ha funestato ovviamente l'atmosfera che doveva essere di gioia, di festa, sono parole che diciamo sempre in questi casi, ma a Misano è stato così, del Gran Premio della Riviera Romagnola, nome che soltanto a dirlo mette allegria, mette gioia, invece oggi è andata davvero in maniera molto molto diversa. Buon pomeriggio a Carlo Vanzini, ciao Carlo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, inviato di Sky Sport, più tardi sentiremo anche Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Carlo, purtroppo insomma noi facciamo i giornalisti, dobbiamo fare i conti con queste cose, tante volte purtroppo ci è capitato di dover commentare queste vicende, però insomma raccontare la morte di un ragazzo di neanche 20 anni in questo modo fa sempre effetto, no? Eh sì, purtroppo siamo anche a ridosso della scomparsa di quel ragazzo americano di pochi giorni fa, di 13 anni, e sono nate molte polemiche sul fatto che questi ragazzi, comunque giovani, comunque con poca esperienza, corrono con dei bolidi a questa velocità, però non vogliamo entrare a fare retoriche troppo facile. Oggi secondo me è uno sport pericoloso, lo si sa, è così. Quello che è successo purtroppo non era evitabile, perché è una caduta e poi il pilota che arriva dietro e non riesce ad evitarlo. Sono situazioni che ci sono state e ci saranno nel moto mondiale, nelle gare a due ruote, nel mondo dei motori. Quindi secondo me è anche inutile creare polemiche, fare discussioni su questo. È il nostro sport, o meglio io lo vivo da appassionato, da giornalista, è lo sport di questi ragazzi. Lorenzo ha dichiarato di averlo saputo prima della partenza e comunque ha corso, è arrivato secondo. Questo vuol dire che poi questi uomini chiudono la visiera e devono tenere aperto il gas, devono fare il loro lavoro. Ho sentito anche Melandri dire il modo migliore per onorare questo ragazzo è continuare a correre e farlo bene, farlo con il gas aperto, perché è quello che faceva questo ragazzo giapponese. E tra poco lo sentiremo, Marco Melandri, nelle sue prime parole dopo quello che è accaduto. Io voglio sentire anche un po' di ascoltatori all'800 24 00 24 per commentare insieme quello che è successo sul circuito di Misano. Se avete voglia di scriverci un sms 349 238 6666. Partendo da quello che dicevi tu, Carlo, chiediamo un po' ai nostri ascoltatori se sono d'accordo con te, se il fatto comunque di aver proseguito la gara in Moto2, di aver corso comunque in MotoGP, tutto sommato sia stato giusto così. Tu insomma sei di questa opinione, sei di questo avviso, no? Ma io credo che questo sia uno sport che condivide le giornate con la morte, condivide gli attimi, i secondi con la morte, quindi tutti questi ragazzi sono consapevoli che potrebbero non finire la giornata, non arrivare al traguardo, ma ovviamente non ci pensano, è un pensiero che vogliono evitare. Io so per certo che i piloti vogliono evitare il minuto di raccoglimento prima della partenza quando ci sono delle tragedie, ma non lo fanno perché per non mancanza vogliono di sensibilità, partecipare. Certo. Certo. È una condivisione costante con la morte, addirittura a Indianapolis c'è la preghiera poco prima del via, la 500 miglia, e il prete in quell'occasione dice proprio: forse qualcuno di voi questa sera non ci sarà. E con questo spirito corrono tutti, lo sanno, ovviamente non ci pensano. La prima domanda, insomma, che ci si pone, come dicevamo, in questi casi è quella che abbiamo fatto a Carlo Vanzini, che giriamo anche a voi all'800 24 00 24, è stato giusto comunque completare quella gara. Ad esempio leggevo una dichiarazione di Valentino Rossi, ovviamente lui dice: quando succedono queste cose il resto non conta, siamo stati informati alla fine della nostra gara, in ogni caso sarebbe stato giusto esporre la bandiera rossa nel momento in cui è accaduto. Stessa domanda che è stata posta in maniera giornalisticamente corretta al dottor Claudio Macchiagodena della Clinica Mobile, che ha spiegato perché la gara non è stata interrotta, perché la bandiera rossa non è stata esposta subito dopo l'incidente a Tomizawa. Io posso spiegare un po' il problema meno. Il dare la bandiera rossa in un caso come questo, dal mio punto di vista, non portava nessun vantaggio, anzi gli interventi forse arrivavano anche maggiormente in ritardo. C'è stato un attimo in cui stavo per chiedere la bandiera rossa, quando ho visto che veniva rimosso e portato dietro le protezioni, dal punto di vista medico non cambiava assolutamente niente. Se poi c'erano altre condizioni tecniche per dare la bandiera rossa, non è compito mio non dire, ma non è cambiato niente, anzi in questo modo ho fatto un intervento a mio parere più rapido. Il fatto che poi sia arrivato un po' tardi al centro medico era perché la gravità ha cominciato e la rianimazione imposto sopra l'ambulanza. Ce n'era un'ambulanza che copriva la posizione, quando è arrivato sul posto, c'era un rianimatore dentro, e quindi ecco il perché questo con calma è arrivato, perché ha cominciato a ventilarlo in quanto stava perdendo conoscenza e le lesioni erano talmente gravi successivamente che non cambiavano. Ma dal punto di vista medico, tengo a precisare, non c'è stato un ritardo, anzi, chiedere la bandiera rossa in questo caso peggiorava la situazione. Perché dovevamo aspettare prima di mettere un'eventuale ambulanza in pista che arrivava da un'altra posizione, i piloti che anche se rallentavano e c'erano le bandiere o meno, non portava nessun vantaggio, perché poi bisognava cominciare quella rianimazione che è stata cominciata subito 20 metri più in là dietro al guardrail. Quindi non è certamente questo, purtroppo, che ha peggiorato la situazione. E questa è la difesa d'ufficio quasi del dottor Macchiagodena della Clinica Mobile. Carlo, tu che conosci i circuiti a menadito, immaginiamo conosca bene anche il circuito di Misano Adriatico, è una spiegazione, insomma una motivazione che ti convince, oppure c'è qualche falla? Ma io sono convinto che la spiegazione è corretta. Chiaramente si poteva anche tranquillamente dare la bandiera rossa, non succedeva niente, si interrompeva in quel momento la corsa e nel caso si riprendeva. Non dimentichiamoci, io ho vissuto in prima persona raccontando i minuti drammatici lo scorso anno a Budapest dell'incidente di Felipe Massa. Al momento noi sinceramente non sapevamo quelle che fossero le condizioni di Felipe Massa. C'è stata bandiera rossa, poi i piloti sono andati ovviamente non tranquillamente, ma sono andati comunque a fare il loro lavoro in pista. Quindi dare la bandiera rossa è una decisione che aspetta ai giudici, con chi deve fare l'assistenza. Evidentemente se non è stata data è perché, come ci è stato perfettamente spiegato, erano già nelle condizioni perfette di intervento. Però restano quelle immagini che abbiamo visto e rivisto in televisione, e c'è da dire che la Dorna, la società che gestisce ed organizza i Gran Premi, è stata molto onesta nel non cassarle, non metterle da parte, come immaginiamo poteva essere anche pensabile. C'è le immagini degli uomini della sanità, della sicurezza, del circuito, che portando via il corpo dello sfortunato pilota giapponese quasi lo fanno scivolare, quasi cade in terra, proprio perché non essendo stata da bandiera rossa continuavano a passare le moto. Ricordiamo che peraltro la Moto2 conta oltre 40 moto sulla griglia di partenza, sono tantissime, e quindi non è come la MotoGP dove sono una quindicina o poco più. Insomma, quelle immagini lì restano, qualcosa da migliorare dal punto di vista dell'organizzazione a Misano e non solo rimane da questo punto di vista, Carlo? Questo è indubbio, non ci fermeremo mai a cercare la giusta sicurezza per questi sport così, come dicevo prima, vivono a contatto con l'incidente. abbiamo dei problemi con la linea con Carlo Vanzini, che ripristineremo assolutamente tra pochi istanti. Ne approfittiamo per ascoltare due testimonianze che ci sono piaciute. Piaciute, tra virgolette, ovviamente, comunque abbiamo ritenuto un po' più adatte al momento. Sono due tra i piloti più esperti del motomondiale, sono Marco Melandri e Loris Capirossi. Purtroppo questi eventi così tragici sono l'unico modo per riportare un po' di umanità in questo mondo così non dico finto, però dove si cerca di far vedere tutto così bello. E non lo so, è difficile, secondo me non ha colpe nessuno per l'incidente di oggi, era una cosa veramente la sfiga più grande che possa capitare a un pilota di una caduta, e non ci resta che ricordare Tomizawa in modo sereno e cercare di augurargli una vita felice la sua. Aveva solo 19 anni e secondo me dobbiamo correre anche per lui e speriamo che la fortuna inizi ad assisterci un po'. È difficile, oggi è un giorno in cui sembra sempre che non sia possibile che accada questo, ma purtroppo in due weekend due ragazzi hanno perso la vita. Purtroppo fa anche un po' parte del gioco, però si crede sempre che non possa succedere mai, e oggi è triste. Io ero amico con lui perché chiedeva consigli, eravamo mercoledì sera insieme a una manifestazione, era un ragazzo pieno di gioia, uno tosto, però purtroppo ogni tanto accade. Faceva fatica a contenere l'emozione Loris Capirossi, che come avete sentito conosceva e frequentava anche di persona Tomizawa. Carlo Vanzini, che spero di aver recuperato al telefono. Carlo, ci sei? Eccomi. Ti abbiamo recuperato. Volevi concludere in una battuta il tuo intervento di prima? Sì, quello che dicevo è che bisogna continuare a crescere sempre con la sicurezza, assolutamente. Bisogna rianalizzare tutto quello che è successo in questa giornata per far sì che l'intervento sia ancora più migliore, cioè che sia migliore la prossima volta, sperando che non ci sia una prossima volta. Certo. È difficile adesso vedere se ci sono delle colpe o no, è vero, quell'immagine è forte del pilota che viene scivola fatto via. Scivolare. È stato fatto un intervento talmente di emergenza, in quel momento c'è tanta di quell'adrenalina anche nei soccorritori, che forse è anche difficile fare la cosa giusta nel momento giusto, però io credo che sia stato fatto il possibile. Probabilmente anche nel momento dell'impatto con Redding non c'era già più niente da fare per questo giovane ragazzo. A noi, insomma, abbiamo utilizzato l'immagine del sacco vuoto quasi che veniva trascinato sulla pista, insomma penso che chi non ha visto la gara poi può farsi un'idea. Luca da Ferrara, ero presente sul circuito di Misano, ci scrive al 349-238-6666, la notizia si è diffusa nei paddock a metà gara della MotoGP, in quel momento si è spento l'interesse per la gara, molte persone hanno abbandonato il circuito prima della fine della gara. A mio parere si doveva sospendere tutto, la vita di un ventenne è più importante di qualsiasi altra cosa. Vi invito a partecipare ancora all'800240024, magari tanti che ci stanno ascoltando, Carlo, in questo momento stanno proprio uscendo da quel budello quasi infernale che diventa l'Adriatica e poi anche l'autostrada A14 dopo la fine del Gran Premio di Misano. Insomma, chi c'è passato sa bene quanto tempo ci vuole per immettersi in autostrada, quindi magari se volete raccontarci anche come avete saputo la notizia, cosa ne pensate del fatto che si sia corso regolarmente in MotoGP, che ci siano state anche le premiazioni sul podio, no Carlo? Almeno quello secondo me poteva essere un segnale, magari così farle in tono minore, cosa che non è stata fatta. Sport e motori. 349-238-6666 per i vostri sms, 800-24-00-24 invece per i vostri contributi in diretta. Carlo Vanzini, almeno una premiazione in tono minore però, sì? Non lo so, io sono reduce dall'Olimpiade e probabilmente voi tutti che ci seguite ricorderete la morte dell'atleta Giordano Kumar Tiashvili. Certo. E quel giorno c'è stata comunque la cerimonia d'apertura dell'Olimpiade, non sono mancate le polemiche perché si è detto si poteva evitare la cerimonia, eccetera. Io ho commentato quella cerimonia, quando ho visto gli atleti georgiani sfilare mi è venuta la pelle d'oca e in quel momento ho detto: questo è il modo migliore per ricordare un ragazzo che avrebbe voluto essere lì, che avrebbe voluto partecipare a quella festa. È chiaro che siamo sempre al limite della polemica e non metteremo mai tutti d'accordo, perché c'è chi la può pensare come me, chi la pensa invece in modo diverso, che bisognava andare tutti a casa e sospendere tutto. Purtroppo è cinico dirlo, il mondo va avanti. Sì. E purtroppo è ancora più cinico dirlo, soprattutto questo mondo, quello della velocità, va avanti e va avanti veloce, condividendo, come ho detto prima, sempre la vita con la morte. Carlo da Carrara ci scrive via SMS: in un mondo, ed è quello che dicevi Carlo, in un mondo dove le persone contano solo dopo le cose, gli spettacoli, che cosa pretendiamo? Che si interrompano le gare? Per questo ragazzo la mia preghiera. Poi ci sono tanti SMS, anche chi cerca di sapere qualcosa di più, evidentemente persone che magari sono uscite adesso dal circuito, che hanno informazioni così poco dettagliate. C'è chi chiede: escluso il guasto meccanico, Carlo, direi di sì, insomma, vista la dinamica di quello che è successo, è difficile che possa essere accaduto qualcosa dal punto di vista, come dire, della meccanica. Cosa ne pensi? Sì, adesso ovviamente faranno le verifiche del caso, poi ne sapremo qualcosa in più. Su questo aspetterei proprio di avere eventualmente dei comunicati ufficiali. Certo. Dalle 2 alle 4 ruote, però, l'atmosfera sui circuiti quando accadono queste cose è la stessa. E chissà, ahimè, quante volte Carlo Cavicchi, direttore di 4 ruote, quando insomma seguiva, immaginiamo, con altrettanta passione anche il mondo delle corse, si è trovato a vivere questi momenti. Direttore, buona domenica, buon pomeriggio. Pomeriggio a tutti, anche se non sarà un gran pomeriggio. No, pure che le corse fortunatamente in automobile, da un po', almeno per quello che riguarda la classe regina, quella dove c'è la massima attenzione, che è la Formula 1, alla sicurezza, veramente facendo gli scongiuri, sono da tanti anni ormai che non vedano situazioni di questo genere, ce ne possiamo soltanto rallegrare, perché se noi pensiamo le polemiche che ci furono proprio per la premiazione a Schumacher a Imola quando morì Senna, che si sono sopite solo dopo molti anni, quindi è sempre molto difficile come comportarsi in questi casi. Noi abbiamo evocato un po' di commenti da parte di ascoltatori che erano lì a Misano, che hanno vissuto magari tutto il pomeriggio, la giornata, sperando in una festa, e poi si sono invece ritrovati insomma in questa situazione molto particolare. Davide è appena uscito dall'autodromo, ha visto tutto. Ciao Davide. Sì, buonasera. Ciao. Niente, io sono lì con mio cugino da stamattina, l'abbiamo visto tutto praticamente. Nella scena dell'impatto, a parere mio, mi sono accorto subito che il ragazzo era già morto, perché era impossibile, si vedeva, era praticamente, non si muoveva più, cioè è stata troppo una botta esagerata. Io ritorno, Davide, sull'argomento con cui abbiamo un po' aperto anche questa trasmissione. Era il caso di proseguirla questa gara così in tribuna? Cosa, più che altro, come secondo me vissuto? C'è stato proprio un errore da parte di chi ha gestito la situazione soccorsi, perché non è possibile, si saranno resi conto da soli che la cosa era grave, ma hanno voluto continuare. Grazie Davide. Nazareno, anche lui era all'autodromo Santa Monica di Misano Adriatico. Ciao Nazareno, buon pomeriggio, buona domenica. Ciao. Ciao, ti sentiamo malissimo, speriamo che strada facendo la linea migliori. Guardi, è giusto. No, direi di no. Proviamo a sentire Nazareno più tardi, anche perché con Carlo Genta dalle 17 in poi continueremo a parlare di questo argomento, della morte di Tomizawa. Continueremo a sentire le vostre opinioni, i vostri pareri, sempre all'800 24 00 24 oppure via SMS al 349 238 6666. Anche qui volevo sentire Carlo Cavicchi, direttore, la gara è andata avanti, ci sono state le premiazioni, molti piloti, in primis Valentino Rossi, sostengono che magari era il caso di finirla lì, di interromperla prima. Qual è la tua opinione? Diciamo che io mi devo inchinare di fronte a un parere come quello di Valentino, perché se con la sua esperienza e la sua conoscenza, ormai lui paradossalmente è il grande vecchio delle corse, per età raggiunta, maturità e risultati, è difficile sostenere qualcosa di differente con un minimo di autorevolezza. Si impara qualcosa, Carlo Vanzini, da questi sciagurati, questi drammatici eventi? Cioè si riesce a fare così tesoro? di qualcosa, oppure fatalmente fra 15 giorni già saremo proiettati sul Gran Premio, sul nuovo circuito in Spagna, tutto da scoprire, tutto da vivere, su Valentino che prepara la nuova stagione, eccetera eccetera? Sicuramente fatalmente saremo proiettati sul prossimo Gran Premio, quando saremo alla vigilia del nuovo appuntamento. È brutto dirlo, non è un personaggio di grido, lo diceva prima il direttore quando c'è stata la morte di Ayrton Senna, lì è cambiata la storia della sicurezza della Formula 1. Pochi ricordano che è morto anche Ratzenberger in quel weekend, fosse morto sì. Solo Ratzenberger se ne sarebbe parlato poco, però da queste situazioni assolutamente si impara come migliorare, come intervenire. Io credo che quello che ci ha detto l'ascoltatore sia assolutamente vero, che la situazione per Tomizawa era ormai compromessa, disperato. Totalmente compromessa, quindi credo che anche nel momento dell'intervento si siano resi conto che era una situazione disperata, forse la vita di questo giovane ragazzo se n'era già andata sull'asfalto. Abbiamo anche in linea Antonio che era al circuito Santa Monica. Ciao Antonio, buon pomeriggio, buona domenica. Buon pomeriggio a voi, io sono in autostrada, ho ascoltato la parte della vostra trasmissione, diciamo dall'intervento del dottor Macchia Godena in poi. Sì. Io ero lì per ragioni di lavoro, sono procuratore federale della Federazione Motociclistica Italiana, ho assistito purtroppo all'incidente e a tutto quello che c'è stato dopo, e mi sento di dire che di fronte a questo tipo di incidente l'investimento da parte del conduttore che segue, c'è ben poco da fare sotto il profilo della sicurezza, nel senso che stiamo parlando di uno sport non ad alto ma ad altissimo rischio. Non c'è dubbio. Nel quale è possibile prevedere le protezioni, è possibile prevedere le barriere, gli spazi di fuga, ma contro l'investimento da parte di un pilota in un punto peraltro estremamente veloce, dove anche l'eventualità di scartare l'ostacolo a terra è un'eventualità estremamente remota. Io credo che si sia trattata della pura fatalità. Non dimentichiamo che una settimana fa ad Indianapolis un ragazzino di 13 anni durante una prova del trofeo Moriwaki è morto per lo stesso motivo, investito dal pilota che lo seguiva. Resta, Antonio, grazie per la tua valutazione. Peraltro, se hai piacere e tempo, magari più tardi nella trasmissione di Carlo Genta torneremo a coinvolgerti, visto anche che ricopri un ruolo istituzionale. Particolarmente interessante sentire la tua opinione. Carlo Vanzini, non è che la quarantina di piloti che corrono in Moto2 sono troppi? Te la butto lì proprio in maniera brutale. No, Su questo c'è da fare un'analisi assolutamente, sì. Bisogna valutare, il problema è che siamo sempre lì, quando corrono in 20 sono troppo pochi, quando sono 40 sono troppi, se sono 30 se ne cercano di altri più 10. Per non averne, purtroppo sai, è un girarci un po' attorno quando succedono situazioni di questo tipo, capire dove, più che altro si cerca il colpevole, quando magari poi come abbiamo appena sentito e io sono d'accordo, si tratta purtroppo di fatalità, è questo. Grazie a Carlo Vanzini, inviato di Sky Sport, buona domenica Carlo, a presto, a domenica ciao. Prossima, ciao. Noi ringraziamo anche Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Direttore, con te volevamo parlare di Monza che si avvicina, della sentenza della FIA sulla Ferrari, ma non c'è più tempo, ne parliamo domenica prossima. Vabbè. Mi sa di sì. Ne parliamo domenica prossima. Ciao direttore, grazie, buona domenica anche a te, un ringraziamento a Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione, a voi per averci accompagnato fin qui. Non lasciate Radio 24 perché ci sono le ultime notizie del giornale radio con Alessio Morizzi alle 17 e poi a seguire Carlo Genta per un tempo di sport che sarà in buona parte, in buona misura dedicato ancora agli approfondimenti e ai commenti su quello che è accaduto a Misano Adriatico. Noi ci sentiamo domenica prossima, speriamo, per raccontare una domenica migliore per i motori. Ciao, al prossimo. Sport e motori.